La cosa più importante, stando a un celebre canto conviviale greco, è godere di buona salute. Proton Igainen. L'affermazione può suonare forse un po' perentoria, ma è di tanta evidenza che nel corso dei secoli pochissimi hanno avuto il coraggio di contestarla. C'è stato, non ricordo più quale commediografo del V secolo, che affermava che non c'è malattia peggiore della povertà, per cui lui alla forma fisica preferiva i quattrini, mi sembra. Fra Jacopone da Todi, naturalmente, 1600 anni più tardi, nel presupposto che in questo mondo bisognasse soprattutto soffrire, onde poter godere nell'altro, chiedeva al suo signore per cortesia di mandargli la Malsania. Ma nel complesso sul fatto che sia meglio essere sani che malati siamo sempre stati tutti d'accordo. Per cui non c'è da stupirsi se una nuova rivista dedicata al piacere di essere uomo, ne avete visto anche voi la pubblicità a piena pagina sui principali quotidiani o in certe gigantesche locandine poste presso ogni edicola, se una rivista di questo genere alla salute degli uomini sia intitolata in inglese, Men's Health, a onta del fatto che il vocabolo inglese per salute, health, sia tra i più ostici al nostro sistema fonetico, contenendo in una sola sillaba un'aspirata e un'aspirante dentale sorda, due consonanti che a noi italofoni hanno sempre creato problemi. Ma così si fa oggi, poi un po' di inglese lo sappiamo tutti, e poi si sa che per un uomo davvero moderno la buona salute in inglese è molto più appetibile di quella espressa in vocaboli nazionali. In effetti, non so se l'avete notato, ma dall'indice riportato in italiano sulla copertina si capisce subito che il concetto di buona salute è stato, per così dire, allargato. Non c'è niente in questa nuova rivista di banalmente sanitario o di fastidiosamente medicinale. Su 10 tra articoli e servizi annunciati, quelli di interesse ippocratico in senso stretto non sono più di 3. Un classico via la pancia in 4 settimane, con un poster in regalo, e 2 regolamentari levati di dosso lo stress e mai più mal di schiena. Forse con un po' di buona volontà anche i 50 trucchi per mangiare bene e bere meglio possono rientrare nella categoria, anche se nell'espressione si può cogliere una specie di strizzatina d'occhi in senso edonistico. Ma poi cominciano delle vere complicazioni. C'è una rubrica di sesso, naturalmente, e non può mancare in una rivista moderna sui problemi del benessere personale, ma i 40 segreti che promette di rivelare servono per farla impazzire lei, povera donna. C'è una rubrica di moda che esibisce 100 idee per cambiare look, e una di viaggi che propone 11 grandi evasioni. E visto che quello delle condizioni di lavoro è un capitolo importante della prevenzione sanitaria, non mancano i consigli su come farla in barba al tuo capo, e l'inchiesta principale a pagina 170 è dedicata all'importante argomento del sesso in ufficio, con la precisazione che ben 2 milioni di italiani lo fanno qui. Il che spiega, suppongo, perché sia necessario eludere la sorveglianza del proprio superiore e stare attenti ai rischi del mal di schiena, ma lascia qualche dubbio su come giudicare i concittadini non disoccupati che lì, per un motivo o per l'altro, non lo fanno mai. Saranno probabilmente malati. Ora, come avete capito, io quella rivista non l'ho comperata. Non mi farebbe male qualche consiglio su come limare la pancia ed eliminare lo stress, ma ho un po' l'impressione di essere fuori dal target. E naturalmente non vado in ufficio, e non ho di conseguenza alcun capo, se non si intende per tale laccame che conosco da troppo tempo per pensare di potergliela fare in barba. Ma mi fa comunque piacere. Mi fa piacere che esista un organo di stampa che affronta il problema della salute con tanta disinvoltura, che non si interessi di argomenti noiosi e poco gradevoli come quello della riforma sanitaria, che non affligga i lettori con i soliti servizi sul diabete, sui disturbi cardiocircolatori, sull'artrite deformante, oddio, ne scampi sul morbo di Alzheimer, che identifichi lo star bene con la possibilità di viaggiare, di seguire la moda, di mangiare e bere con gusto e naturalmente di conoscere i 40 segreti del perfetto amatore. L'identificazione è forse un po' disinvolta, il modello proposto non è di quelli cui tutti possono sperare di adeguarsi così, non fosse altro per motivi economici, ma con i modelli succede sempre così. Se questo ideale di impiegato gaudente e moderatamente trasgressivo attiva davvero qualcuno, non si vede perché negarglielo. nella promessa di far impazzire il signore a comando e di riuscire a gabbare il capo ufficio senza problemi, non implicita alcuna proposta eversiva. Si tratta soltanto di una banale fraseologia consolatoria rivolta di solito a chi del vero se delle gerarchie ha sempre avuto parecchia paura. L'unico vero problema è quello del sesso in ufficio. Nel senso che di uffici non ce ne sono abbastanza per tutti. Ma cosa ci volete fare? È l'effetto dell'ostinata pervicacia con cui la sinistra tradizionale s'abbarbica dei modelli di rigidità occupazionale che hanno fatto il loro tempo. Lasciate fare al governo e vedrete che di lavoro forse non ne salterà fuori un granché, ma di uffici vuoti, se si va avanti così, non ne mancheranno di certo. E tutti finalmente potranno andarci a fare l'amore. Dal punto di vista della salute sarà sicuramente un progresso. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and